Attenzione. Vabbè. Benvenuti. Craig mi ha scritto Craig, non so in chat cosa voglia dire, però ci fidiamo. Penso sia registrazione. Benvenuti, puntata 210. E con me ci sono Andrea, Jacopo e Angela. Ciao. Hello. Ciao. Devi parlare vicino al microfono. Ciao. Non è vero, si sente. E vogliamo fare un episodio sul film più visto di tutti i tempi di Netflix, che è una cosa top, perché ha tolto il primato a un altro film che abbiamo recensito. Sì. Che non lo meritava. Vero? Oddio, qual era? Red Notice. Ah, oh mamma. Quindi sì. Sono molto contento che questo film sia uscito per i motivi sbagliati. Il film di cui parliamo è un film d'animazione, è uscito quest'anno, si chiama K-Pop Demon Hunters, e tradotto è come gli americani vogliono utilizzare il K-Pop coreano che va di moda per fare soldi, giusto? Giusto. Sì, esatto. Ok. Questo è il sottotitolo. Era il sottotitolo. Ah, per il riassunto mi farò aiutare da voi, perché io rischio di sbagliare, visto che in realtà stavo facendo altro mentre lo guardavo. E diciamo che ho ascoltato le parti importanti. Quindi, le canzoni. Le canzoni, esatto. Quindi per il riassunto mi affiderei a qualcuno di voi. L'unica cosa che voglio dire all'inizio, appunto, è un film uscito quest'anno. E è disponibile su Netflix, quindi se ce l'avete andatelo a vedere. Ed è un film appunto di animazione, ma anche con molte parti musicate, quindi due episodi con film musicati su due praticamente abbiamo fatto. Grazie. E in questo caso però non è la musica sapio che abbiamo ascoltato nell'ultimo episodio, ma è K-pop fake, ma K-pop. Prego, chi è che fa il riassuntino? O l'intro? Beh, il salotto di solito. Ah, devo farlo io lo stesso? No, vabbè, o se no... Tu provaci, al massimo ti correggiamo. Allora, io la cosa che ricordo in questo film... Ok. È che ci sono tre ragazze che fanno parte di una K-pop band super stereotipata, quindi ha tutte le robe stereotipate coreane, fatte anche abbastanza bene... per quanto mi riguarda, però appunto è super stereotipata, che oltre a fare K-pop ed essere quindi super famoso, il loro gruppo si chiama? Antrix. Ok. E anche il nome fa l'occhiolino, perché sono delle Huntress, sono delle cacciatrici di demoni, e quindi utilizzano le loro abilità musicali per cacciare i demoni. No, per uccidere i demoni. Per mettere la barriera con il mondo. Per dei mettere demoni. La barriera con il mondo. Ok, questa parte mi mancava. Però è lo stesso. Scusa, Sandra, cosa facevi mentre guardavi? Stavo mettendo a posto le foto. E stavo facendo un po' di post-produzione, mi sa. Della Corea, sì. E cosa succede? I demoni sono stanchi di essere picchiati a sangue da queste Antrix. E quindi decidono di cambiare strategia e non fare la stessa cosa di sempre, ma mandare una K-pop band, ma maschile, boy band. K-pop boy band, esatto, e a fronteggiare gli Antrix per battere nella loro stessa, diciamo, challenge, della loro stessa classifica, ovvero fottere i fan alle Antrix, giusto? Sì, perché okay. I fan poi davano anime. Ok. E poi vabbè, c'è tutta la solita storia d'amore, in realtà è tutto abbastanza banalotto quello che succede, e poi si scoprono anche altre cose, insomma ci sono coinvolgimenti di demoni, non demoni, insomma origini un po' dubbie e origin story un po' strane, e fondamentalmente a suon di musica K-pop il film va avanti e vabbè, e insomma c'è lo scontro tra questi Antrix e questi gruppo di boy Korean K-pop band. Ho detto tutto? Devo dire altro? Sì, penso che il K stia per Korean, però. Sì, poi c'è una cosa, c'è una tigre che non ho capito che cazzo ci sta a fare. È lo spirito guida, insieme al corvo. Vabbè, questo me lo sono perso, però forse non era importante, non lo so. E basta, che altro devo dire? Niente. Ho scordato qualcosa nell'intro? No, beh, gli elementi sono questi. Possiamo passare al prossimo film. A posto, ciao. Grazie di averci ascoltato. Allora, cose da dire di questo film. Intanto che ha fatto fare un botto di soldi a Netflix, e gli sta facendo fare un botto di soldi. E, il film è totalmente americano. L'attrice principale è una cantante americana, di origini coreane, ma pur sempre americana. E l'unico con, diciamo... No, e c'è pure Ken Jeong, per farvi capire quanto... Questa roba è americana, e... però parla di coreani. Cosa volevo dire con questo? Ah, niente, che in realtà il reparto più importante in questo film è la parte musicata, no? È chi ha composto le canzoni. E chi ha composto le canzoni... Subito. No, si rifà totalmente al K-pop, quindi le canzoni sono proprio K-pop, non c'è nient'altro ed è come se andassi in Corea, fin troppo. Detto questo, poi ne parleremo, la lingua è in inglese però sì. Il film, e anche la lingua delle canzoni è in inglese. E... Sì, però. No, però cioè, se tu ascolti una canzone K-pop ha una frase nel ritornello in inglese e il resto in coreano. Pronunciato male, no, non è vero, in realtà cantano bene. E invece qua è al contrario, cioè c'è una frase sparsa in coreano ma tutto il testo è quasi tutto in inglese. Ok, e in realtà le canzoni, vabbè, no, non vi dico cosa ne penso io, ditemi voi cosa ne pensate, poi ne parliamo un po'. Hello? Allora, no, allora, mentre guardavo questo film pensavo... Io non voglio fare quello che... Allora, non so se vi è mai capitato di guardare uno stream su Twitch di qualcuno che gioca a qualcosa o guarda qualcosa e lo insulta. E magari voi siete anche fan o comunque quella cosa vi piace e pensate fra voi, ma questo coglione, questa persona non ha capito un cazzo. Cioè, non... Nel senso, le Io critiche che sta facendo... Io calcare. Ah, oddio, addirittura. Così hard. No, beh, anche lui, cioè, chiunque sia, nel senso, se a me piace, che cazzo ne so, mi piace Game of Thrones e Zero Calcare lo insulto, no, aspetta, esempio sbagliato, se mi piace, per esempio, uno dei miei giochi preferiti è Psychonauts, ho visto uno streamer giocare Psychonauts 2 e insultarlo dall'inizio alla fine, ma semplicemente perché... Non era il suo gioco, non era un gioco adatto a lui, non era un tipo di gioco che gli piace, non è neanche un gioco che si presta particolarmente a Twitch. E quindi alla fine ho detto, vabbè, mi stai sul cazzo, non apprezzi le cose che apprezzo io, però ci sta perché non è per te. Sto film non è per me. Cioè, nel senso, io mentre lo guardavo dicevo, a me sembra... E per favore, chi ci sta ascoltando, se qualcuno ci sta ascoltando, non offendetevi. A me sembra di guardare un video promozionale di League of Legends di un'ora e mezza. Cioè qualcuno che ha fatto una specie di rimaneggiamento dell'estetica K-pop, dei testi K-pop, eccetera, però non mi dice nulla. Cioè nel senso, è animato benissimo, è animato da Dio... hanno anche fatto un buon lavoro a discostarsi un po' da Spider-Verse, perché comunque... Sì, è sempre Sony come prodotto. Sempre Sony, è da lì che viene. E comunque a me piace Spider-Verse e sono contento che sia rinato un po', diciamo, quello stile di animazione un po' più 2D. Però è puro 3D, è puro, diciamo... Cioè, molto stile anime... Molto sì, però appunto sì, mi ricorda, non lo so, non mi ha lasciato nulla come film, non so come dire, non mi ha sorpreso, non mi ha trascinato, le musiche, vabbè, io non sono un fan del K-pop, quindi diciamo non mi ha particolarmente trascinato come musica, eccetera, bello da vedere sicuramente, carino il gatto, lo stregatto enorme e il corvo col cappello. Però sì, cioè, diciamo che chi dice che questo film è meglio di Spider-Verse solamente perché magari il montaggio è fatto meglio, io non lo condivido, cioè non sono d'accordo. No, è sicuramente più accessibile come film. Sì, sicuramente. C'è una differenza importante tra quelli di Spider-Man e questo, che quello di Spider-Man ha una trama vera, questo ha una bozza di trama e lascia un botto di robe. È accessibile, sì. Sì, ma è accessibile come può essere Peppa Pig, cioè nel senso... No, sì, delle cose che vengono a malapena abbozzate, lasciate lì a cadere nel vuoto. Anche la pseudo storia d'amore, siamo tipo ai livelli degli elementari, del tipo mi dà la mano. Chissà in Corea come funziona. Sono americani, quindi. No, esatto, quindi potevano fare quello che volevano. No, sono d'accordo sul fatto che, cioè, a me è piaciuto molto meno di quelli di Spider-Man. È carino. Ma pure meglio di Red Notice. Pure la colonna sonora mi è piaciuta meno di quelli di Spider-Man. Ah, no, sì, chiaro. Cioè, vabbè, quello poi nello specifico perché c'è un tot di plagio. Non c'è plagio. Vabbè, dopo ne parliamo. Hanno tratto ispirazione da alcune canzoni che adesso sono molto famose in Corea. Cioè, è chiaramente meglio di Red Notice, però è mediamente banalotto. Cioè, pure Turning Red, non è Sony, però è fatto, secondo me, molto più carino, è molto più approfondito. E ci trovo, cioè, sono tra un po' simili come stile di film. Solo che questo qua l'ho trovato appunto molto... Beh, parla di altre cose, semplice. Però sì, effettivamente comunque lì ci sono boy band e... E capisco a cosa ti riferisci, però cioè, per me la delusione è stata... come dire, non andare più a fondo sul tema che potevano affrontare, perché inizialmente sembrava che volessero puntare molto sulla metafora dello stress, della stanchezza, dell'essere workaholic, del non prendersi una pausa, perché in realtà, anche se nel film sembra che sia lei ad essere... come dire, drogata di lavoro e appassionata e voglia continuare a lavorare, nella realtà le persone che stanno nelle band K-pop, donne o uomini che siano, sono torturate. Cioè, nel senso, non è che loro, come fai vedere nel film, possono mangiare carboidrati prima di una performance. Non possono manco vederli i carboidrati. Sono proprio, cioè, sembra quasi... non so, 10 volte militare come regime. Adesso io non sono un esperto, so solo quello che ho, diciamo, assorbito guardando video casuali su YouTube e sentendo un po' in giro, ma è veramente, veramente tosta, cioè veramente complicato come lavoro. Sembra, perché come ce lo immaginiamo noi, magari sembra qualcosa tipo, che ne so, Justin Bieber ti hanno preso, hanno sganciato una vagonata di soldi, bam, sei famoso, no? Cioè, è la pipeline, diciamo, dell'industria della musica, ora è buttiamo un sacco di soldi in producer, gente che ti fa suonare e cantare bene, ti scrive le canzoni, così, sei figo, a posto, fine, no? Invece lì è all'ennesima potenza questa cosa. Ora, magari voi che ci siete stati, avete sentito, avete percepito ancora meglio questa cosa, però sono veramente... Qui è invischiato anche in altro, cioè tu non sei solo un artista, sei anche lo sponsor delle merendine, lo sponsor del coso, hai una catena di locali che fanno caffè, che hanno la tua faccia sopra, quindi tu devi comporre canzoni con la faccia di questo bar, è tutto collegato, cioè comunque è abbastanza... Sì, è più simile all'idol giapponese che esatto. Alla nostra pop star. C'è un'opera che tratta più o meno abbastanza bene sta cosa, anche il fatto dello stalkeraggio un po' che subiscono... Oshinoko si chiama, dovrebbe essere molto carino da quello che dicono, se volete. Stai guardando. Forse suggerendo qualcosa di Sapio? No, è un anime, quindi... Ah, ok. Stai forse suggerendo di leggere qualcosa di Sapi. Manga, anime, quindi o potete leggere o potete guardare. Oshinoko. Comunque, ti sembrava una cosa un po' così per scimmiottare, Jacopo? Per far vedere una vetrina di qualcosa, di una cultura che non gli appartiene? No! No, cioè... Dai, per una volta che fanno un cazzo di film dove sono tutti davvero di origini coreane, almeno, tra l'altro il cattivo è no. coreano. Cioè, come invece no? E invece no. Considera che la loro consulenza è tutta americana, e quindi nella creazione delle loro canzoni, loro sono ispirate a canzoni famose coreane, ispirate intendo plagiate. Però secondo me non hanno scimmiottato... Secondo me è diverso. Plagiato. Cioè, plagiato, ok, adesso ci arriviamo a quello, però per me non era l'intenzione, come dire, fare, come posso dire, uno scimmiottamento, non so come dire, cioè per me questo film è fedele alla cultura, diciamo, K-pop, proprio nel senso che è finta, non so come dire, cioè, capito, in senso negativo. Cioè, è un po', non lo so, mi ha lasciato un po' questo amaro in bocca di superficialità, però. Tu vuoi dire qualcosa prima di andare via? Che le canzoni sono carine, però già sentite. Oh no. Sì, allora, appunto, le canzoni sono molto... Allora, le canzoni dei ragazzi, come si chiama la band loro, non mi ricordo più? Sanja Boys. Sono quelle dei BTS. Oh no. Allora, alcune volte c'è un po' di pop americano anni 2000, tipo un po' di Maroon 5, questa roba qua, che è originario degli Stati Uniti, quindi è roba che hanno messo dentro loro, però molto spesso quello che viene fuori sono i BTS, come coreografie, come... Ci sta, d'altro, cioè sono famosissimi, va benissimo, però... Quanto sono il 2%, il 3% del PIL coreano? Esatto, il 3% del PIL coreano, però, ecco, sono molto simili. Invece le canzoni loro, e in particolare la canzone che è la canzone che un po' guida tutto il film, quindi fosse un musical sarebbe un po' il motivo che c'è, che è presente in tutto il film, e... È praticamente sono l'insieme di due canzoni di Haipu, che è il gruppo coreano che al momento è più ascoltato in Corea. E quindi sì, diciamo che ecco, si sono ispirati, però hanno proprio... Cioè hanno deciso di prendere proprio lo stereotipo, che al momento è la cosa più famosa possibile, delle canzoni coreane. Poi i fan si sono un po'... direi arrabbiati, ma in realtà penso che siano proprio incazzati, quindi sono post su Reddit, su sta roba, e per quanto sia plagiato o non plagiato le canzoni, soprattutto quelle dell'Hypo, soprattutto Golden. No, Rebel Art. Eh no, la canzone... Sì, Golden. Golden. Cioè noi l'abbiamo messo in pausa per cercare se una canzone fosse la traduzione, cioè se Golden fosse la traduzione in inglese della canzone, perché diciamo impossibile, allora, identica. Vi dico come è andato, io non volevo vedere questo film. E stavo facendo altro, cioè nel senso non è che non volevo vederlo perché ero contrario, ma semplicemente stavo facendo altro. Ho sentito quando è partita la canzone che si chiama, come Golden. Golden si chiama, che è all'inizio, no? È la canzone che poi sarà presente in tutto il film, e ho detto questa l'ho già sentita, ed è effettivamente uguale alla canzone delle Hype. Poi loro sono state molto eleganti, soprattutto la cantante del gruppo, e ha fatto una cover, e ha pubblicato una cover su questa canzone, è stata molto elegante e non ha detto pezzi di merda americani del cazzo, però fondamentalmente la community se n'è accorta, non è che adesso serve questo orecchio assoluto. Il problema è solo dei fan, credo, e anche mio, a me dà un po' fastidio che come al solito all'interno della cultura americana c'è la cosa di prendere una roba famosa, una cultura famosa e scimmiottarla un pochetto. poi scimmiottarla nel bene e scimmiottarla nel male. Abbiamo sentito tutti le parti in italiano di Olimer del Cinebuilding. Della nuova stagione, cioè è un po' all'interno delle produzioni americane. Non, diciamo, mettiamola così, in altri termini, adesso non è per fossilizzarmi su sta roba, gli costava poi poco chiedere una consulenza o fare o mettere un credit alla fine e dire ci siamo ispirati a, però non c'è stata questa roba. Detto che non l'ha fatto neanche con la canzone che è uguale a quella di Rihanna, sì. Però va bene. Volevate Andrea? Quale sarebbe quella Take Me Down? Dice? Quale? La canzone quella di Rihanna. Quella di Rihanna? Sì, Take Down. Quella del dissing. Okay. Vabbè, si vede, è abbastanza evidente, no? No, ci sta, ci sta. Cioè, il fatto che non ci siamo messi d'accordo e tu l'abbia riconosciuta subito. No, vabbè, a me comunque è piaciuto, è stato fresco, un film fresco, leggero da vedere, passava. Sì, sì, sì. Godibile, non... ascolti le canzoni, fai due pezzi, due mosse di ballo. E via. Io ho apprezzato l'attore che fa il dottore, che è il tizio di Lost, vabbè, Daniel Day-Kim. E ho scoperto che uno dei tizi della boy band è uno youtuber che mi fa schiattare dal ridere. Non lo conoscete, ProZD, ma fa degli short, delle cose. Vabbè, è un tizio. Molto simpatico. Mi chiedevo perché hanno usato due attori diversi per la parte recitata e quella cantata. Perché alla fine, come ha detto Angela prima, pure cioè, le canzoni comunque di coreano ci sono solo delle piccole frasi all'interno della canzone, quindi potevano imparare. No, perché hanno usato attori americani per recitare e cantanti coreani per cantare, quindi... Oh, ma è un po' come i film Disney, cioè è una tradizione sì, musical. Esatto. Ah, vai via, va bene, ciao. Ciao. Ciao. Abbiamo perso un componente del podcast. E boh, sì, è un po'... E poi la scena dei titoli di coda, cioè appunto c'era questa canzone, dicevi tu prima, Take Down, fatta da un gruppo K-pop, le Twice, quindi una cover della cover. È quello, cioè... È quella roba lì che poi, vabbè, alla fine è godibile appunto il film, è carino, leggero, le canzoni ti rimangono nelle orecchie, però c'è quel fastidio di fondo per cui sono riusciti a fare, è come se avessero fatto, come se non avessero avuto il budget semplicemente per prendere un gruppo decente o per perdere del tempo in un gruppo decente, eccetera, eccetera. Poi il film gli ha fatto fare i milioni, però mi dà quell'idea lì, è un po' boh, un po' cheap, un po' è come fosse un prodotto indie, un prodotto amatoriale, noi lo facciamo ispirandoci ai grandi, però non lo è. Bravi tutti, bravi tutti, bravi tutti. Ci avete provato, dai. No, ho fatto un sacco di soldi, avete provato, ci siete riusciti. va bene Salla, va bene. Cioè, l'indice di gradimento è altissimo. Comunque, appunto, il film è uscito anche nei cinema e la gente è andata nei cinema per cantare le canzoni mentre il film veniva riprodotto. Oh, è Natunatu, che bello. Natunatu anglofono, sì. Oh no, che cosa mi è sbloccato, un ricordo. Che bello Natunatu, io ci penso sempre. RRR, com'è il film? RRR. Un giorno, per tutti quelli che ci ascoltano da quell'epoca, un giorno impareremo il balletto tutti e tre. Ma l'abbiamo visto insieme quel film, non ricordo male. Sì, sì, avevano 40 gradi. No, vabbè. Incredibile. Tra l'altro è lunghissimo, l'abbiamo visto insieme, vabbè. Mi spiace, No, a me è piaciuto, molto bello. Va bene, e poi niente, visto il successo, probabilmente adesso ne faranno un altro e basta. È giusto, non finisce come deve è finire. È giusto. Nel frattempo, ovviamente, Netflix ha fatto uscire, ha chiuso tipo 2 milioni di serie in questi giorni. Non so se avete notato. Sì? E penso sia perché hanno vinto pochi Emmy. Volete dire due parole per gli Emmy, visto che ci siamo e parliamo di TV? No, se c'è qualcosa che ha vinto in particolare che... Allora, c'è un film, una serie che avrei voluto vedere, ma non posso più perché non ho più l'abbonamento, che è The Studio. Devo vederlo anch'io, cazzo. È che ha vinto tipo un botto di premi, è la serie di Seth Rogen. Adolescence pure devo vedere, l'ho scaricato. Volevo dire che ce l'ho da guardare nella lista di Netflix. Poi sono molto contento che Slow Horses ha vinto un altro Emmy, che è la serie, diciamo, thriller di spionaggio di Apple. È molto figa, è una serie prodotta, tratta da dei libri, ma prodotta e credo anche scritta in parte da Will Smith. Ed è figo, cioè, nel senso, non è niente di che, però fa il suo. Non so come dire, cioè, ti aspetti una serie di spionaggio tipo inglese base, ed è quella, ed è stata quella, ed è ancora quella in tutte le stagioni che sono uscite, quindi sono molto contento che abbia vinto di nuovo. E molto figo, se vi capita, la sigla è una canzone scritta da Mick Jagger. Attenzione. Molto carina. Io sono stato contento che ha vinto Brit Lauer per Severance e anche Christian Milioti per The Penguin, anche se secondo me non è proprio, diciamo, la performance della sua vita, Sofia Falcone. Però senti, The Penguin è molto carino. No. Cioè, Andrea, sì. T'ho detto, cioè, se lo merita, ma magari non per quel ruolo, cioè, nel senso, c'è, ha fatto di meglio, però ci sta. Devo guardarmi anche The Pitt, cazzo. Un sacco di premi ha vinto. E The Bear quest'anno non ha fatto niente, invece. E secondo me è sbagliato, perché la quarta è molto bella, l'ho vista poco fa e ve la consiglio a chi ci ascolta, ve la consigliamo. È bella come una seconda. Non so perché, magari ha già vinto troppo, non lo so, ha voluto... Sì, possibile. Andor ha vinto un po' di roba, mi sa, sì. Pare. No, ha vinto un premio, mi pare. Ah, tipo 5 nomination, ha vinto quello per la scrittura, che è meritatissimo. Cioè, Andor, veramente... Cioè, anche non sapete che cazzo è Star Wars, guardate Andor, è troppo bello. Io continuo a non aver visto neanche la prima e... e vai, no, però mi stupisce. In tutto questo, appunto, Netflix non credo abbia vinto niente. Ma va bene così, va bene così. I soldi li fanno, a posto. No, scusa, Adolescence forse è di Netflix. Quindi in realtà... Ah, no, è vero, sì. Quindi vero. In realtà no, avete detto cazzata, ha vinto un botto di premio stesso. Ok, sceneggiatura, attrice non protagonista, va bene, niente. Volevate aggiungere qualcos'altro? No, top. E vabbè, se vi capita e siete curiosi del film, comunque è abbastanza corto, è abbastanza leggero, e un'occhiata gliela darei, anche solo perché le canzoni sono tutte orecchiabili, carine. Poi se il K-pop vi fa cagare, evitate. E... detto questo, niente, grazie per l'ascolto, grazie per aver registrato con me e noi ci vediamo settimana prossima con una bomba, una vera bomba. Oh, ciao. No. Ciao a settimana prossima.